Anarchy come me. Sono un demonio io. Una belva umana. Sono dotato di una tale dose di cattiveria da affossare tutte le guerre del mondo. Sono anche brutto. Per rappresaglia. Fascino zero. Forse sono malato di fegato. Ma non mi curo, così imparano. Anarchico. Gli anarchici amano l'umanità. Sono una merda, io altro che anarchico. A me l'umanità piace guardarla dall'alto. A volte spengo le luci e mi metto alla finestra. Ridicoli loro, eh? Curano la facciata e qualche volta anche il di dietro. Io invece da qui su li vedo ribaditi, spiaccicati sul marciapiede, schifosi, con le gambette che escono dalle spalle. Puh, puh, puh! Bisogna renderle chiare le superiorità morali, anche con fatti materiali, se no si afflosciano le superiorità. Solo così si spiegano i campanili e le torre Eiffel. Qualcuno dice, andare a Dio, guardare sotto, puh, dalla torre Eiffel, boom. Quando si è sullo stesso piano degli uomini, è difficile vederli come delle formiche. Ti sfiorano, ti accarezzano, ti entrano dentro, ci si affeziona, che schifo, non c'è niente di peggio dell'amore, me lo devo ricordare, sono una merda io. Guardano su. Che c'è? È il tempo che è cattivo? No, sono io che sono una merda, puh, puh, puh. I bambini, come li odio i bambini. Con loro è più difficile, eh? Come bocciare il pallino, ci vorrebbe l'anticipo. Puh, ma cresceranno, eh? E gli verranno dei petestoni, allora io puh, puh, puh, den, den, den. Guarda, guarda là come corrono, guarda, guardali, guardali. Mai che andassero sotto una macchina. Io sono per le macchine, per forza, sono una merda. Dai, dai, prendilo, prendilo che tuo, dai, prendilo. L'ha mancato. Negati, mai che ne prendessero uno. Una volta uno l'hanno preso. Non era un bambino, era un anziano. Vabbè, meglio che niente. E l'ambulanza, E io ciò che arrivo prima, l'ambulanza, io ciò che arrivo prima, pa! Sono arrivato primo. L'ho visto. Ho visto tutto quel sangue. Quanto sangue. Mi sono detto, dai, non è più commovente di un po' di smalto fresco, fai finta che gli abbiano dipinto la faccia di rosso. Ad un certo punto ho sentito una sporca dolcezza. Come una schifosa pietà prendermi alla nuca e anche alle gambe, plum. Sono svenuto. Ma come? Sono una merda! Mi sono risvegliato in farmacia. Erano gentili, mi davano delle gran pacche sulle spalle, mi davano da bere, mi volevano bene. No! Sono fuggito, sono corso a casa terrorizzato. Per un attimo, anche se solo per un attimo, ho avuto paura di non essere più neanche una merda.